Siamo in missione per conto di Dio. "24 mattino" di Luca Telese. Ma fammi ridere, fammi ridere, fammi ridere, caro ascoltatore, Simone, fammi ridere. Non è che il lavoro è usurante, è il lavoratore che è usurato. Non so se lei sa bene cosa sta succedendo nel mondo della scuola. È diventato un assumificio, si assume gente per non far niente ed è una cosa. Bravo, medaglia. Sarà anche questa una bolla di sapone, quindi siamo abbastanza fiduciosi, perché la verità verrà fuori in maniera prepotente nel momento giusto, come è già venuto fuori adesso. La coerenza la ritroviamo purtroppo solo nelle cuneiette di Playboy. Io sono una partita IVA, vado con contratti a tempo, mi pago da solo i contributi. Io facevo i gazebo per fare, ecco, per dire, non è che ce l'ho con Giannino. Per mia figlia che ha 20 anni, se gli dico, se mi parlo delle conigliette, giustamente sputo in un occhio. Se i 5 Stelle, quando dicevano a qualunque avviso di garanzia, dimettiti! Ecco, adesso sono diventati grandi, sanno che governando l'avviso di garanzia arriva. Ma legge. Non sono comprensibili. Scatta il vaffanculo, non so se mi spiego. No, sei spiegato molto bene. Molti sono convinti che la nostra Cruciani sia una figlia legittima di Cruciani, invece non c'entra niente, e che Veronica Gentili abbia una parentela con Guido, invece neanche alla lontana. Oscar, l'ultimo miagolio. Dovremo lavorare di più, dovremo, anche se non vi piace. Reach out and touch faith. Bello il racconto del venerdì, ma noi siamo già entrati in una nuova settimana, una settimana di passione per l'Europa, una settimana che si apre con gli echi, di cui parleremo a lungo, del voto spagnolo, del voto catalano, con un paese sull'orlo della dissoluzione, stretto fra la ribellione dei catalani e la possibile insorgenza, pensate un po', persino dei baschi. Questo è il tema serio, ma ovviamente siamo qui per raccontare perché siete svegli, perché siamo svegli, siamo sempre il popolo che produce e lavora, siamo quelli della mattina. E qui al mio fianco Roberto Corradi, che è una voce storica della mattina, è uno dei ruggenti del coniglio. Buongiorno. Però sei parte di quella storia con la tua voce. Eh sì, per 6 anni, grosso modo. E quindi siamo qua, che Radio 24 in fondo è un 4 in più rispetto a Radio 2, quindi non è che mi trovo abbastanza bene, diciamo. È un esilio politico con un permesso temporaneo. Tutti ti ricordano per questa performance, per i tuoi poletti, no? Come, perché poletti? Poi perché che tu poletti, sei... a parte che è pettinato come quando aveva 9 anni, se fai caso, non ha mai cambiato pettinatura. Io non riesco a calarlo nel ruolo del ministro, secondo me è una trattoria, quindi alla fine di ogni discorso c'è sempre il menù, poi abbiamo un secondo di scalop che facciamo noi, oppure il vino della casa, cioè un po' il problema di Giovanardi. Ma lui ha mai protestato con Rai 2? No, perché è carino e simpatico. Sì, perché poi c'è la scalop in cottura. Il fritto misto che ci racconta le notizie della giornata. Smoke on the water. À Levallois-Perret, le 9 août dernier, où 6 militaires ont été blessés. Et donc, c'est effectivement quelque chose d'assez récurrent. Et là, c'est aussi quelque chose de récurrent qu'un auteur d'acte terroriste... è una voce tragica, è l'attentato di Marsiglia. Pensate, quasi in secondo piano. Quando le notizie scompaiono di fronte alla Spagna, questo attentato quasi non lo abbiamo visto. Hoy todos los españoles hemos constatado que nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza. Il messaggio dell'uomo forte di Madrid, ma sarà veramente forte, forse debole, Mariano Rajoy, che alla televisione in prima serata, catalizzando l'attenzione di tutta Europa, dice: tutto è andato bene, non ci sono stati scontri, non ci sono stati incidenti. Anche tu hai notato questa cosa, si è svolto pacificamente. Che voleva che succedesse, cioè. Più che così. Invece una notizia del weekend che va ripresa, se non altro per quello che ha rappresentato, striscioni, polemiche, ma poi alla fine Mentana è andato, e si potrebbe dire che in questo confronto fra il conduttore, direttore del TG della 7 e i ragazzi di Casa Pound, forse hanno vinto tutte e due. E alla mia destra abbiamo il dottor Mentana. Essere alla vostra destra è stato veramente difficile. perché sono qui? Perché se l'era preparata, fantastico. Normale per chi ha soltanto le sue idee è la possibilità di confrontare le sue idee. È assolutamente il sale della democrazia. Se si pronuncia con chiarezza contro ogni tipo di violenza e il ricorso alla violenza come arma d'accompagnamento alla lotta politica, se ripudia ogni forma di razzismo, confrontare le idee pacatamente vuol dire creare l'antidoto più forte contro quei rischi. Cosa sono le idee fasciste in democrazia? Trovare la possibilità di fare quanto fatto, cioè di trovare quel tipo di unione, di porre di ottenere consensualmente quello che fu ottenuto, esatto, con la forza? Di porre quella visione di unità. E qui mi pare che Di Stefano abbia perso il colpo, perché con Mentana che va a 100 all'ora è Mentana difficile. Mentana è irraggiungibile, come un po' le dirette di Mentana, un po' lo rappresentano, incontenibili, diciamo. Luca Terese e Roberto Corradi che vanno subito a sentire una nuova esternazione di Vincenzo De Luca. Abbiamo approvato un'altra legge assolutamente inutile che avrà l'effetto contrario rispetto a quello che si propone. Noi veniamo ormai da anni nei quali c'è stata una crescita drammatica della barbarie nella vita pubblica del nostro paese, in generale. Ed uno degli aspetti di questo imbarbarimento è rappresentato da alcune leggi che sono per un verso offensive dello Stato di diritto, per un altro verso assolutamente inutili, anzi dannose. Era la festa del PD di Castelvolturno e io confesso la mia colpa. Sono un cronista politico, dovrei essere attento, ma mi perdo, non sento più che cosa dice perché sento apprezzo questi sussurrati. Conseguenze politiche. È il fenomeno di questi personaggi imitati da Crozza che poi imitano Crozza. È vero, è che debbono andare sopra. Non riesco. E allora sentiamo invece la grande polemica sul codice antimafia. Avremo più avanti, se resisterete, l'ospite più importante su questo tema, ovviamente l'uomo che in qualche modo lo ha concepito, ma sentiamo che cosa ha detto Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, sul codice antimafia. Abbiamo letto molto bene, mi sembra che i profili di incostituzionalità non sono solo la nostra riflessione ma anche di altri. Vale la pena approfondire, evitare dogmi in questo paese che fanno solo danni anziché costruire una società aperta ed inclusiva. Crea solo ansia, perché onestamente la ipotesi, diciamo, di presunzione di colpevolezza e di sequestro di imprese è un danno grave, perché gli imprenditori e le imprese vivono di reputazione. Una volta che si fa un errore, quando gliela restituiamo l'impresa è fallita, e questo è un danno all'economia. L'economia è un fondamentale per il paese, non è un elemento marginale. Vincenzo Boccia che risponde a Rosi Bindi, e noi avremo ospite Raffaele Cantone. Ma qua sono un po' inquietato perché è entrata Rachele per fare un live. Ma che siamo stamattina con Radio Rachele? Vabbè, Salvini contestato al volantinaggio di Via Giambellino a Milano. Devi andare, non ti vogliamo. Sei razzista schifoso, non ti vogliamo. Schifo. Ecco qui abbiamo qualche contestatore. Qualche. Tanto per cambiare. Via, via, Salvini. Complimenti. E mi pare che c'è un menù abbastanza denso. Ovviamente bisogna anche dire qualcosa sul campionato. Tu sei profano, non sei... Assolutamente, io non so però nulla. C'è stata una partita epica ieri. L'Atalanta era sotto 2-0 con la Juve. 2-0. Poi si sono rimboccati le maniche, è arrivato il grande cuore di questo tappo, di questo piccoletto geniale che è il leader di questa squadra. Sai che ha fatto anche una Papu Dance, Papu Gomes, prima 2-1, poi 2-2, poi un rigore per la Juve e... Ancora rigore, parte Dybala con il sinistro, Berisha glielo prende, ci rimane 2-2. Vabbè, mi scuso con i tifosi bianconeri, ma è la cronaca, è diritto alla cronaca, no? Sai come fa Sallusti quando fa un frontale contro qualcuno? Fa, scusi signore, ho detto, però insomma, così è un fatto. Beh, qualunque cosa può giustificare questo. Senti, invece un tuo grande personaggio è questo Don Matteo. Che adesso tornerà, Don Matteo. Don Matteo è intramontabile. La cosa bella è che Don Matteo è un allevatore, no? È un allevatore di pippi, cioè Pippo maschio e Pippo femmina. Pippo e Pippo femmina. La cosa bella di Don Matteo ma cos'è un Pippo? Pippo è un assistente di Don Matteo che essendo inferiore a Don Matteo non ha diritto al cognome. E in genere sono quelli che risolvono i casi, ma Don Matteo non glielo dice perché li considera subumani e dicono Pippo sei un genio, poi va a mettere a posto la situazione, ma non gli spiega perché, perché tanto sa che non capirebbe. E in secondo genere... te il Pippo è uno dei motivi di successo di Don Matteo? No, il motivo di successo di Don Matteo è l'implausibilità dell'essere umano. Terence Hill ha 100 anni e non lo sa, non li dimostra, è perfetto, è lucido, i muscoli, è la canottiera nonostante la canotta, l'età. Sempre la canotta. E vuole spacciare lui come uguale agli altri esseri umani. Io non conosco nessuno come Terence Hill. Quindi secondo te l'elemento di appeal subliminale è che tutti vogliamo essere un po' Don Matteo. Che lui ci dice non è vero che sono superiore a voi e tutti dicono ah forse è così. No, non è vero, è superiore a tutti. Strade! Facciamo un avvertimento sindacale, è immorale alzarsi a quest'ora. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta. '24 mattino. I già svegli. Buongiorno. Eccolo, il vio, già sveglio? No, dalla voce non si direbbe però. No, no, cioè, la voce è bella impastata. Impastata, anche perché non è neanche fatto in tempo per il caffè. Intanto essere svegliati da personal Jesus significa parlare del più grande leader, del più grande comunicatore della storia. Sono sveglia perché sono vecchia e come tutti i vecchi dormo poco. E cerco di riempire queste ore in più con la rilettura. Adesso sto rileggendo la Divina Commedia, per esempio. Allora, stamattina ero già sveglia perché mio partner fa i turni e perché penso e spero di essere rimasta incinta stanotte. Non riesco a dormire per il fatto che temo per la mia pensione, la mia modesta pensione. Dopo 40 anni sui 3.000 euro, questo non mi fa dormire. Cioè, non avrei avuto nessun motivo al mondo per svegliarmi a questo momento. Eccoci, buongiorno, allora popolo di Già Svegli, 349-238-6666 per i vostri messaggi. E Roberto Corradi vi legge con la sua splendida voce baritonale il numero della segreteria 02-4652-4492. No, ma leggendolo così non chiamerà nessuno, dai, sei distante, non comunichi, dagli più appeal, più interpretazioni. Sei sicuro? Sì. 02-46-52-4492, no, non è venuto, forse preferivo quello di prima. Un programma del pomeriggio, una cosa proprio che uno si sveglia e dice devo subito lasciare il messaggio. 02-46-52-4492, poi basta perché... Bene, perché vogliamo avere un'altra voce meravigliosa come quella della giovane madre che ha detto penso di essere... essere incinta, era poesia quella, poesia pura. Allora, Roberto, un altro personaggio della tua galleria di maschere folli, ma ruggito, proprio pazzi per far passare queste idee. Nel periodo iniziale abbiamo fatto due personaggi, uno era Mario Pio, il compagno della parrucchietta di Alberto Sordi. Ah, bello, l'hai fatto rivivere. E lo sai, il mio primo contratto Rai è stato per fare Mario Pio, quindi pronto, prendo Mario Pio, prendo un ghippardo. Abbiamo recuperato la sigla storica del 49. Perché che accento non era romanesco, era accendo dei compagnucci della parrucchietta. Da andare da da da. Mamma mia. Burino, come dicevo. Un baburino. E cosa diceva? Qual è la Lui rispondeva a delle lettere, perché tu la sai la storia di Mario Pio? No, non la so. Mario Pio fu una parodia di Maria Pia, che fu questa rubrica di questa signora che per la prima nella storia della radio italiana rispondeva alle lettere degli ascoltatori. Uh-huh. Arrivò Sordi parodiandola e Sordi è rimasto per anni, dopo un mese hanno licenziato Maria Pia, quindi no! Ha distrutto la vita di questa. Come faceva, però rispondeva così, lui a vai con Dino Imbertelli con questa sorta in vituperio. Oh, mamma mia, ande cose mai detto. E facevo rispondere alle lettere di Grillo, di Berlusconi. Pensate cos'è la radio, la parodia è sopravvissuta al parodiato. Subito, immediatamente, ha attecchito immediatamente e se ne lascia una traccia molto labile nella storia di questa povera Maria Pia. Credo ci sia anche un filmato da qualche parte che la ricordo. Bene, e vedo che arrivano i vostri messaggi. La frequenza 93-200 in provincia di Messina spenta, mi piacerebbe poter dire la riaccendiamo subito, però no, racconteremo. Senti, Roberto, che idea ti sei fatto ieri vedendo queste immagini della Catalogna? Pensate che è la prima volta che un paese del nucleo dell'Europa, nato dopo il 45, non Europa dell'Est, non ex Jugoslavia, è la prima volta che un paese è sull'orlo della secessione. Beh, che c'è lungimiranza, gratitudine verso il governo italiano che, come vedi, non ci fa votare mai, perché vedi che succede quando lo fanno per noi, per dai, il nostro questo paese. Questo spirito parossistico. Ma no, immaginato. Ma io sai, ti dicevo prima delle dirette di Mentana. Non ci fa votare mai. Le dirette di Mentana sono stupende perché poi la mattina dopo si riassumono in una frase, durate 6 ore. La frase è: ha vinto il sì. Quando ore e ore e ore per Trump, ha vinto Trump. Cioè, in genere, quindi stamattina ho visto l'inizio della diretta, poi stamattina 87% di sì, si andava verso il 90%. Di voti, sì, perché non è stato, hanno sequestrato le schede. Sì, beh, però. Pensa, le urne venivano dalla Cina e costavano 5 euro l'una. Ma loro che cosa si mettono in testa di fare? Di annullare questa volontà popolare? Pensano che sia possibile? Prima o poi sicuramente l'annulleranno, sicuramente si andrà verso uno sciopero, lo racconteremo nella segna stampa, e anche verso una dichiarazione di indipendenza. Che altro, cos'altro ti ha vinto in questa settimana televisiva? Tu che sei un settimana curioso. Televisiva, che è la cosa più bella della televisione, adesso sono i film, cioè quindi il cinema che non è televisione. Per il resto della televisione io sono affascinato quasi da tutto. Tu sai che i canali dal 25 in poi si basano tutti sui reati, cioè la corruzione, l'usura, ci sono programmi sugli usurai che vanno tantissimo, anche che seminano Banco dei Bugni, la famiglia dei usurai. Cioè, pensa, mia moglie è appassionata dei programmi dei ciccioni americani, con Nosara, il socio di una drammaturgia fantastica. Prima c'è il ciccione che pesa 400 kg e dice: devo dimagrire per mio figlio, poi va a palestra, cose, piante, ogni tanto c'è questo dramma che passa davanti al cheeseburger, non resiste e poi dimagrisce. È la cosa bella, indiano Nosara, che è uguale a Howard Cunningham, al padre di Cunningham, che è il produttore della serie, speculatore feroce, tanto che una volta dimagriti gli arrivavano questi con questi sacchi di pelle, dice: facciamo un programma pure sulla pelle in eccesso. Cioè, è proprio una delle persone più cattive. Allora, adesso torniamo seri, perché abbiamo una voce di un giornalista che è stato dentro questo racconto, Pablo Rodriguez. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Giornalista del Mundo, ieri lo avete sentito, lo avete visto in molte televisioni. Allora, proprio per rispondere ai dubbi che hanno coloro che non seguono tutti i dettagli, che scenario vedi nelle prossime 24 ore? Cosa può accadere fra la Catalogna e la Spagna dopo questa terribile giornata? Uno scontro peggiore che quello che abbiamo visto ieri in piazza. Adesso viene la vera crisi politica. Domani sicuramente l'inizio di un sciopero generale, c'è la convocatoria da parte della CUP. La CUP, se non la conoscete, sono un partito, sono dieci deputati al Parlamento, sono i veri radicali, gli unici veramente, non gli unici, ma assieme a Schiera Repubblicana sono gli unici veri indipendentisti, sono di sinistra, comunisti, quelli che sono i veri radicali, hanno chiamato un sciopero per mettere la pressione sul governo catalano. Però governo catalano adesso non procedono con la dichiarazione di indipendenza immediatamente. Sì, si procedono con la dichiarazione di indipendenza. Loro l'hanno detto tantissime volte, ieri l'ha ripetuto il presidente Puigdemont. Loro fanno questa analisi che dicono che il 90% dei voti sia per l'indipendenza. Dobbiamo dire chiarissimamente: non esistono i voti, non ci sono 2 milioni di voti per l'indipendenza, quel numero è una invenzione, come possiamo dire 1 o 3 o 5, non esiste, non c'erano cabine per fare il voto segreto, non c'erano osservatori. Nessun osservatore dell'opposizione, non c'erano liste elettorali, hanno fatto una lista, un censimento online un'ora prima che la Guardia Civile ha interrotto, ci si poteva votare 2, 3 o 4 volte, ci sono tantissimi video e testimoni di giornalisti che hanno votato più di una volta o hanno votato senza abitare pure il resto Catalogna. Della Spagna come vede? Perché c'è un discorso diverso per i baschi e un discorso a parte per il resto della Spagna. Come vedono secondo te gli spagnoli? Ci abbiamo tre differenti posizioni. Da una parte quelle dei baschi, che effettivamente sono gli unici assieme alla Navarra che hanno una situazione, uno statuto fiscale differente speciale, loro pagano meno tasse, c'è un accordo differente con la col governo centrale, che è quello che i catalani volevano per sé. Sì. Oggi abbiamo fatto noi nel mondo il calcolo, circa 13 miliardi costerebbe un sistema fiscale È stata la negoziazione che ha messo fine alla guerriglia nei Paesi Baschi, giusto? Quello che ha messo fine alla guerriglia sono state la polizia, e dopo 800 morti finalmente c'è stato. A livello politico sì, il governo basco adesso è importantissimo e chiave. E gli altri spagnoli cosa pensano? I bilanci. Che pensa? Le foto, le immagini che sono arrivate ieri di Barcellona, con lo scontro con la polizia, sicuramente hanno fatto un danno terribile all'immagine della Spagna, del governo spagnolo. Abbiamo perso questa battaglia della narrativa. Invece nel resto della Spagna succede il contrario. Quelle sono delle immagini, delle idee che rafforzeranno Rajoy. Lo rafforzeranno. Sì, perché è assolutamente contro l'indipendenza, sono contrari al governo catalano, c'è adesso una posizione molto molto critica, molto contraria, ci sono tantissime voci che chiedono mano più dura con i catalani, basta una negoziazione, basta dei privilegi, basta di una condizione, uno statuto specifico fiscale o politico, queste persone sono fuori della legge, hanno violentato la Costituzione ed era bisogno l'intervento della polizia. Allora, questo sicuramente rafforzerà. A livello cittadino, a livello politico non lo sappiamo, sicuramente Rajoy. Grazie. Pablo, ti ringraziamo e ti chiameremo presto perché ho l'impressione che la storia qui sia appena iniziata. Ciao papà, sei obeso.